E benvenuti, buonasera, buon 2018, questa è la prima puntata del nuovo anno, almeno di 8 Hertz, qui su Radio Wombat. Grazie a voi ascoltatori che state ascoltando questa trasmissione dall'inizio, che è ormai più di un anno che va avanti. L'ho intitolata 8 Hertz Dance, come un giochino un po' stupido di parole, però insomma, appunto, anzi, la puntata riguarda fondamentalmente musica elettronica, elettronicissima, e più che altro dance, quindi di movimento, ritmata, per far muovere i vostri corpi ma anche i vostri neuroni. Ovviamente non potevo mettere robe commerciali che manco mi piacciono, ma quindi esplorerò stasera qualcosa comunque che ha a che fare un poco con la dance scura, oscura e profonda, deep, insomma, in una parola, e altamente psicotropa, anche che rasenta la ritualità. E pare ci saranno un sacco di gruppi europei. E il primo che metto si chiama Lutto Lento, che in realtà è un polacco, un tipo polacco, che fa appunto delle prime cose, tutta roba degli anni 2000, dal 2010 in su più o meno, quindi roba recentissima. Lutto Lento, appunto, polacco, che le prime cose erano marcatamente techno, per poi andare sull'abstract. L'Experimental, come l'ultimo disco che qui metterò, del quale metterò un brano, il disco si chiama Dark Secret World, appunto del 2017. Il brano è It's a Horror and It's a Wonder. Ho conosciuto questo gruppo, in realtà questo progetto, anzi, perché è un tipo solista, da pochissimo, perché ho visto qualche giorno fa al cinema All These Sleepless Nights di Michael Mark Zack, e c'è una bellissima colonna sonora, poi ne parlerò quando farò un programma che ha a che fare con le colonne sonore, come è già stato fatto altre volte qui su 8 Hertz. E insomma, questo All This Sleepless Night è pieno, farcito di musica techno, dance e derivati, e per cui ovviamente il regista, essendo polacco, ha inserito vari pezzi di Lutto Lento. Adesso ce l'ascoltiamo, It's a Horror and It's a Wonder. Thank you. Grande lutto lento, prima mi hanno corretto i, come si chiamano, i fissati con la Polonia, i polaccofi, non so, dicendo che mi hanno detto che ho sbagliato a pronunciare il nome del regista di All This Sleepless Night, infatti si chiama Michal Marshak, ecco che è il titolo, il nome e cognome preciso pronunciato bene. E, un altro gruppo, anzi questo come potete ascoltare, insomma c'è, ho voluto provare a ricercare qualcosa che abbia dei suoni diversi, dei suoni nuovi e anche delle stilistiche di fare elettronica e di fare dance molto differenti dal solito che escono un po' fuori dal comune, dato che proprio 8 Hertz indaga sempre sulla musica particolare, altra, diversa, in minoranza e sempre comunque ricercata, ecco. Passo al pezzo successivo che è The Accord, degli Accord, che sono più conosciuti, sono un duo di Manchester che hanno fatto un unico LP nel 2013, ma hanno fatto vari singoli e ed EP attualmente attivi, usciti tutti per la Houndstooth, che è un'etichetta inglese sempre. Anche loro hanno una componente ritualistica, niente male. Infatti c'è stato un bellissimo remix di The Axan Clock che mi piace molto, appunto ha remixato anche un pezzo loro. Questo pezzo si chiama Navigate, che proprio si trova nel disco, nell'LP, ma anche nel singolo, nell'EP che si chiama proprio Navigate. Ascoltatevelo e fatevi un bel viaggetto anche qua. Questi erano gli Accord con Navigate, bellissimo pezzo, quasi minimale, anche se molto ma molto ritmato. Se l'ascoltate a volume alto ne potrete godere, ne sono convinto, e anzi dovreste proprio farlo, perché a volte ascoltare una musica elettronica o dance che non sia propriamente con la cassa in quattro a volume alto può risultare molto più efficace molto più intensa anche. Comunque, andando avanti, ora vi parlo di Lorne, ovvero Marcos Ortega, che è degli Stati Uniti, dell'Illinois, anche se fa attività di DJ, musicista e produttore a Milwaukee. Ha fatto anche dei dischi per la Ninja Tunes, che è un'etichetta ormai prestigiosa e molto conosciuta, e fa anche roba un pochino più tranquilla o trip hop e derivati. E questo pezzo è tratto dalla prima parte di The Maze to Nowhere, che sarebbero tre volumi, sono una sorta di EP, anche se la prima parte è molto più lunga delle altre due. E tra l'altro, se vi piace, la potete scaricare direttamente dal Bandcamp di Lorne gratuitamente o dandogli qualcosa se siete generosi. Per cui è stata anche una bella trovata, una bella scoperta sapere che insomma alcune cose del suo catalogo si possono trovare sul suo Bandcamp personale gratuitamente. Il brano si chiama Upside Down Cops e questo è lo stile di Lorne, almeno per questo trittico di dischi. Questo era il bellissimo Lorne con questi suoni belli spessi e di drumming ben accentuato, quasi tribale. E insomma, è sempre comunque a un beat non troppo elevato, anche, anzi quasi mid-tempo, ancora più lento. Così come si può ritrovare nel pezzo in questione di questo duo successivo che vi presento, che sono i Rhyme. Hanno fatto due dischi, tutti entrambi usciti per la Blackest Ever Black, che mi piace un sacco come nome per un'etichetta. Anche loro scurissimi. Il pezzo in questione è tratto dal primo dei due dischi che si chiama Quarter Turns Over a Living Line del 2012. E il brano si chiama Exist the Repeat of Practice. Tanto se trovate video sono anche molto belli, potete guardare sul tubo. Ecco a voi i Rhyme. Time Exists, The Repeat of Practice. Siete su Radio Wombat e questa è 8 Hertz. E voi pensavate stasera di trovare la Tunes Tunes, visto che avevate letto forse su Facebook che c'era qualcosa a che fare con la dance? E in realtà c'è qualcosa a che fare con la dance, ma tutto in un altro modo, e soprattutto andrebbe ascoltata a volume altissimo, e se potete in casa vostra o dove altro, in qualsiasi luogo voi vi troviate, alzate a palla il vostro amplificatore fino a che le casse reggono questo tipo di musica e di basse, che ce ne sono tante. Parlando di Facebook, vi voglio ricordare appunto i social, che appunto oltre a lui, l'innominabile che si nomina 500 volte al giorno nell'arco della giornata, c'è anche il Twitter, che è twitter.com/radiowombatfi, e il sito che ovviamente conoscete, che si chiama wombat.noblogs.org, e la mail nella quale ci potete scrivere le vostre impressioni, che si chiama postawombat@insiberia.net, e perché no, per proporci anche qualcosa e per anche collaborare con noi. Vi ricordo che il palinsesto si sta aggiornando via via con nuove cose anche molto interessanti. Per esempio, da quest'anno partiranno vari tipi di rassegna stampa. C'è già una new entry, che è Passaggio a Nord-Ovest, stampa rassegnata. Sapete che c'è Passaggio a Nord-Ovest, che è una sorta di rubrica informativa sui problemi della piana. Bene, la stampa rassegnata vi porteranno proprio, citeranno e discuteranno su ciò che è stato scritto proprio riguardante la parte nord-ovest di Firenze. Poi abbiamo Basement Records, che ogni tanto si fa vedere, che è una trasmissione fantastica, dove sono stati praticamente ritrovati dei vinili di ogni sorta e provenienza, soprattutto 45 giri vecchi, trovati negli scantinati di qualche probabile trasloco. Ecco, e loro li mettono e ne parlano simpaticamente, come dicono loro, tutto condito in salsa Wombat. Coming Song, che non è ancora un appuntamento settimanale, ma spero che lo diventi. 13 Boots 20 sulla sulle sottoculture da strada, musica oi, skin e punk rock. Senza Frontiere, che è un altro programma che di parlato e non musicale, che ha a che fare con l'internazionalismo, le lotte, la cultura e storie del mondo. E poi ci sono gli storici Coccoli al Silicio per i nerd, sugli ingranaggi, diavolerie tecnologiche, accrocchi, roba vecchia, roba nuova, di tutto di più, tutto parlato e anzi inframmezzato da qualche musichetta. E appunto poi le Tonight Live con delle retrospettive, spesso proprio anche live, di tutta la musica dall'elettronica al funky. Soul Time, che appunto sul Northern Soul. 8 Hertz, che è la mia, che quella state ascoltando, che come Slick Chick, che è un altro programma, trasmette ogni settimana qualcosa che è unito da un filo rosso tra un brano e l'altro. Poi c'è il programma di linguistica, l'Accademia della Brusca, che va forte, reinizierà settimana prossima. E poi credo che ho detto tutto. Uru sulla musica e cultura africana, forse l'ho detto tutto. Andiamo avanti con due pezzi che a sto giro non sono per niente dance, ma ci stanno bene perché dopo un po' che uno ascolta la musica ritmata ha anche bisogno di qualcosa di ambientale per entrare dentro la dimensione che si è fatto o fermarsi lì e essere guidato dalle onde musicali. E questo è il caso di un brano di Alessandro Cortini, che diciamo chi è? È un bolognese del 76, polistrumentista, compositore, produttore che abita in America e ha avuto la fortuna di fare un'audizione per i Nine Inch Nails. Trent Reznor l'ha sentito, si è meravigliato e l'ha fatto suonare con lui prima nel tour di Live With Teeth, del disco With Teeth, e poi dopo è entrato proprio a far parte dal 2013 fisso, forse prima del 2013, sì, quindi proprio è un membro della Inch Nails, suona synth, tastiere, basso. Insomma, essendo un polistrumentista ci sa fa un po' con tutto e ha fatto anche dei dischi solisti prodotti da lui, ne ha fatti vari, 5-6 se non sbaglio. Il brano in questione che vi metto è tratto dal penultimo, che si chiama Avanti del 2017. L'ultimissimo che ha fatto, tra l'altro, ho letto che insieme a Merzbow per Important Records, ma ancora non l'ho sentito, quindi ho preferito mettere questo, che è un brano ambient drone che cresce. Insomma, basta, ascoltatevelo. Alessandro Cortini, nel quale ci potrete trovare anche un po' di sonorità dei Nine Inch Nails migliori, quelli che hanno a che fare più con quasi con le colonne sonore visionarie più che con i pezzi pop dell'ultimo periodo. Bene, non fare. Sì, pronto? Buongiorno, signore. No, ma siamo qui a tavola in tanti, comunque. Ah, sì, ce la cambiamo, ce la fine. No, no, dica pure, prepara. Thank you. Questo era Alessandro Cortini, membro dei Nine Inch Nails, e quando l'impatto sonoro vale anche di più della composizione in questa sorta di esegesi musicale, ecco. Un altro pezzo, come avevo detto, non ha a che fare col ritmo, ma con sonorità molto ricercate, un po' con le timbriche anche di questa serata. Il pezzo che vi metto è di Prurient, che è un newyorkese, si chiama Dominic Fernow, anche capo fondatore della label Hospital Productions, attivo dalla fine degli anni 80, anzi attivissimo, con sperimentazioni che riguardano il noise, l'industrial, l'uso aggressivo della voce, fertilissimo, appunto, se guardate la discografia, produce tipo 4-5 dischi l'anno, per cui insomma la discografia è copiosa, insomma, è anche pesante. Il brano che vi metto è tratto da Bermuda Drain del 2011, come c'è scritto nel disco, da ascoltare ad altissimo volume in macchina mentre attraversi i tunnel delle autostrade che percorri. Uscito per Hydra Head Records, tra l'altro, c'è l'etichetta di Aaron Turner degli Isis. E quando l'ho sentito mi ha meravigliato proprio a questo punto, sia per la composizione, che sembra quasi una piccola operetta, e anche per la sensazione di tristezza che lascia. Insomma, ascoltatevelo, e poi ci sono varie sorprese all'interno del pezzo che è difficile che vi aspettiate. Prurient Palm Tree Corpse. Thank you. die! From spoil, plantains! Crawl down! Tarantella! Ah! Questa era Prurient di black metal liana ispirazione con Palm Tree Corps. Ci sono delle atmosfere che sono molto vicine alle cose ambientali che ha fatto Burzum in alcuni dischi. Vabbè, comunque abbiamo finito un po' con le pesate di ambientali e si ritorna nel ritmo con chi? Con Peaches che fa una cover dei Throbbing Gristle, e la cover in questione è Convincing People, Convincing. E allora vi spiego chi è Peaches, per se non la conoscete, è abbastanza conosciuta, è una cantante produttrice canadese di Toronto, famosissima nell'ambiente electroclash, è sempre stata molto provocatrice più che altro riguardo alle identità sessuali, contro ovviamente ogni sorta di classificazione, quindi molto vicina alle tematiche queer, pro ermafroditismo. Infatti mi ricordo che la copertina del disco a mio avviso più famoso, che tra l'altro si chiama Fatherfucker, anziché dire Motherfucker, ha pensato perché non possiamo dire Fatherfucker, sempre destinato alla donna il ruolo di qualcosa di estremamente negativo e di aggressivo proprio nei confronti del genere femminile. E nella copertina, a parte la bellissima scritta glam metal anni 80, c'è il suo viso munito di una gran bella barba, per cui insomma è anche una cosa che fa piacere trovare, ovvero il fatto che ha coverizzato un brano dei Throbbing Gristle, dato che Genesis Peorage non è proprio non naviga sull'ermafroditismo, ma su una cosa un po' più sua che si chiama la pangenia, che è simile ma a suo avviso un po' differente, ovviamente come vuole essere lui nei confronti di tutto il mondo, e dare una sua idea unica e originale e anche a mio avviso anche fondata. Comunque Questo disco deve ancora uscire perché è un tributo proprio a Genesis Piorig, uscirà a febbraio del 2018, ma in rete si trova qualche anticipazione come questa qui che tra pochissimo ascolterete. E è un tributo a Genesis Piorig perché? Perché lo aiuterà a ripagarsi purtroppo le spese ospedaliere, perché ha scoperto da qualche mese di avere la leucemia. In America, appunto, o sei ricco o devi trovare degli escamotage per aiutarti economicamente, per cui qualcuno ha visto bene, qualcuno che l'ha a No Pleasure Records, di fare questo tributo per donargli un po' di soldini. Poi c'è tanto da discutere su queste cose, ma no, qui non è il caso. Comunque, appunto, piacerissimo di sentire, anzi finalmente sentire un pezzo dei Throbbing Gristle, storici dell'industrial, per chi non li conoscesse, coverizzato da Peaches, un pezzo semplice, minimale e aggressivo, come sanno fare sia Throbbing Gristle che Peaches. E quindi buon ascolto, il pezzo è una bomba, Convincing People. Peaches, come erano grandissimi Throbbing Gristle, ripeto, Convincing People, lei che ha coverizzato loro. Siate su Radio Wombat, questa è 8 Hertz. Noi andiamo avanti con un duo svedese di questi anni che si chiamano in un nome improponibile, ma ve lo leggerò. Sono tutte delle lettere SHXCXCHCXH. Appunto fanno un po' quello che abbiamo ascoltato nel corso della serata tra la techno, lo sperimentale, qualcosa di industrial. Il brano è tratto da un disco del 2016, si chiama SS con tantissime S. Il brano in questione è SSSS con 4 S, penso sia il brano 3 o 4, via via le S si allungano, insomma, nell'arco della cosa. Ok, ascoltatevelo, secondo me sono tostissimi. Thank you. qui c'è l'agenda degli eventi vuota perché non è stata aggiornata, perché siamo ancora ai primi del 2018, quindi è tutta una grande confusione, una grande voglia ancora di non accettare l'anno che verrà, anziché è. E quindi l'unica cosa che mi ricordo però è domani, appuntamento al Next Emerson di Firenze, domani venerdì 12 gennaio con i Randy Savage, che sono una band punk rock, power pop UK, estera, credo inglese, ma forse mi sbaglio. E prima suoneranno i Barudas, che sono budget glam punk, come vengono definiti, di nostrani della nostra zona fiorentina, e quindi è un appuntamento tutto punk rock e rock and roll. Cioè andate a correte numerosi all'Emerson, perché potete trovare una serata molto molto carina. E la trasmissione sta finendo, e ovviamente mi ritrovo a parlare ancora dei due tipacci dei Godflesh, ovvero Justin K. Broderick e Kevin Martin, che hanno fatto anche loro, oltre al Godflesh nuovo che è molto bello, che ancora non vi ho fatto ascoltare, hanno fatto separatamente delle musiche elettroniche con i loro progetti, tra i tanti che ne hanno, insomma meno conosciuti. E appunto vi metto tutti e due i pezzi uno di seguito all'altro, così la facciamo finita e la smetto di parlare. E il primo in questione è appunto il disco di The Bug, cioè il progetto elettronico di Kevin Martin, che addirittura sfiora anche il reggae-muffin in alcune produzioni, e insieme agli Earth, ovvero il progetto di Dylan Carlson, che non c'entra nulla con l'elettronica, ma è un pioniere del drone metal, doom, facendo sempre dei riff, pochissimi riff, tutti uguali, ossessivi nell'arco di un brano, brani lunghi, lentissimi, accordati bassi, insomma prima o poi ve li faccio ascoltare, che sono veramente fondamentali per un genere abbastanza di fuori come quello del drone metal o doom. E appunto il brano è tratto da questo disco che hanno fatto, è l'unico, che si chiama Concrete Desert, uscito tra l'altro per la Ninja Tune, se ne parlava prima, e si chiama Don't Walk These Streets. E poi dopo metto J.K. Flash, ovvero Justin K. Broderick, che si firma così per la sua roba più elettronica, quasi techno. Il brano si chiama Tamiflu, da Suicide State Antibiotic Armageddon per Avalanche Recordings del 2017. Per cui prima The Bug versus Earth, e poi J.K. Flash. Io a questo punto vi lascio con questi due pezzoni. Ci troviamo settimana prossima. Se vi piace potete ascoltare le repliche, ci sono appunto di tutti i programmi, li trovate nel palinsesto nel sito di Radio Wombat, appunto è wombat.noblogs.org, e poi li trovate anche archivizzati i podcast, per cui insomma se vi piacciono queste puntate, vi piacciono le altre passate, ve le cercate, insomma fate come vi pare, potete avere tutto. Intanto vi metto Bugs vs Earth, 8 Hertz, Radio Wombat, ciao, alla settimana prossima. JK Flash con Tamiflu. Buonanotte. Radio 1.